Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Inizia oggi la mia navigazione all'interno di Radio 24. Ho assunto la direzione poche ore fa e comincia anche questa nuova rubrica Dietro la notizia, appunto, che vuole essere un dialogo aperto con gli ascoltatori e anche il modo per approfondire i commenti sui fatti della giornata. Lo faremo ogni giorno partendo da un breve collegamento con l'autore dell'editoriale del Sole 24 Ore, ma anche di altri quotidiani, e poi lasciando spazio ai vostri interventi e alle vostre domande, a cui cercherò di rispondere. Oggi abbiamo con noi Adriana Cerretelli. Buongiorno Adriana. Buongiorno. È inviata del Sole 24 Ore a Bruxelles, che ha firmato l'articolo di prima pagina Flessibilità, l'alibi europeo. Permettetemi però in questa occasione, chiedo scusa Adriana se la faccio attendere qualche secondo, proprio perché è il primo giorno, di ricordare i ringraziamenti che ho già fatto nell'editoriale del GR24 delle 7. Ringraziamenti non rituali all'azionista e al gruppo del Sole 24 Ore, al suo presidente Giancarlo Ceruti, che mi hanno dato fiducia, garantendomi nello stesso tempo la più ampia libertà e autonomia, ma insieme a loro ai due direttori che mi hanno preceduto, Elia Zamboni, che con passione e capacità innovativa ha creato e sviluppato la radio, e Giancarlo Sant'Almassi, che negli ultimi 3 anni ha portato grande competenza e professionalità, facendo crescere insieme la qualità e gli ascolti, e che ha accompagnato, e lo ringrazio con cordialità e amicizia, questo passaggio di consegne. Raccolgo un testimone certamente impegnativo, ma so di poter contare su due punti di forza. Da una parte l'essere all'interno di un grande gruppo che ha saputo conquistare la leadership informativa per competenza e capacità critica e che ora ha in Ferruccio De Bortoli una guida editoriale di grande professionalità. E l'altro punto di forza è una redazione, la redazione di Radio 24, attenta, capace, motivata, una redazione che in questi anni ha saputo rispondere e certamente saprà rispondere anche in futuro all'esigenza di essere un guardiano cordiale ma implacabile di fronte ai palazzi del potere. Ma vediamo all'oggi, vediamo all'attualità, un'attualità purtroppo ancora segnata dalla crisi, vediamo come si muovono gli stati e come si muove l'Europa. Adriana Cerretelli è in linea. Adriana è inviata del Sole 24 Ore a Bruxelles, ha scritto il suo commento sulla prima pagina del Sole di oggi. Ricordo agli ascoltatori il numero 800 24 0024 per le vostre telefonate. Allora Adriana, l'Europa e l'alibi, ancora una volta l'Europa non risponde alle sollecitazioni di una crisi forte come non mai? No, l'Europa risponde, ma invece che rispondere, diciamo, da Europa, risponde con la voce dei 27 paesi che la compongono, e questo, se si vuole, indebolisce l'impatto della risposta europea, perché è vero che si parla di coordinamento delle risposte in atto, ma è altrettanto vero che questo coordinamento è fatto più a parole che a fatti. Noi abbiamo visto, per esempio, le banche centrali europee che sono intervenute all'unisono senza problemi, perché sono, come dire, delle entità strutturate e uniche, mentre invece per l'Europa questo tipo di risposta coordinata ancora non si è vista. In alternativa hanno come dire, immaginato una serie di escamotage per cercare di rafforzare questo coordinamento, ma tra gli escamotage c'è questa idea della flessibilità interpretativa delle regole del mercato unico e del patto di stabilità, che possono creare dei contraccolpi non indifferenti sulla stessa realtà europea, paradossalmente. Ecco, ma si parla già concretamente di una flessibilità anche sul fronte dei bilanci pubblici, cioè del superamento dei parametri di Maastricht? Dunque, sotto quell'aspetto se ne parla, nel senso di dire che il 3%, cioè il tetto invalicabile per i deficit pubblici, resta, ma chi lo sfonderà potrà, diciamo, avere dei tempi di rientro allungati, e questo darà modo di in qualche modo di gestire al meglio gli sfondamenti. Ma secondo me la cosa più pericolosa ancora non è tanto la flessibilità sui deficit pubblici, quanto la flessibilità sugli aiuti di Stato, che di questi tempi vengono erogati un po' a tutti. Perché, come cerco di spiegare, l'aiuto di Stato è, come dire, il mattone, la pietra angolare del mercato unico, nel senso che l'aiuto di Stato è un pilastro del regime di concorrenza che consente al mercato unico di funzionare senza distorsioni. Infatti tu ti chiedi nel tuo articolo se uno Stato compra banche in crisi, segue la logica dell'aiuto del mercato, distorce o no la concorrenza, quindi rischia di saltare uno dei capisaldi appunto dell'Europa. Ti ringrazio Adriana Cerretelli per questo intervento, lasciamo allora la parola agli ascoltatori su questo tema, ma come consuetudine anche per questo spazio informativo anche su altri temi. E abbiamo Alberto da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Le chiamavo in quanto ho sentito l'intervento del dottor Marco Riera circa 20 minuti fa sul provvedimento, chiamiamolo salva risparmi degli italiani, varato appunto dal governo. Mi è sembrato di sentire alla fine del suo intervento che i risparmi, i depositi sono assicurati, ma le obbligazioni non sono assicurate. Desideravo sapere se ho capito correttamente o meno. Io la ringrazio, io non sono l'autorevole interprete di Marco Riera, il decreto è stato pubblicato ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale, adesso lo stiamo esaminando, ne parleremo di questo tema sicuramente nella rubrica Salvadanaio che va in onda dalle 12 in poi. Io peraltro non sono un tecnico e non posso sostituirmi ai tecnici, lo spazio di questa rubrica è soprattutto uno spazio di approfondimento sui temi, sui grandi temi politici, ci sono altri spazi all'interno della radio proprio di approfondimento tecnico, ma su questo tema comunque non voglio mancare a una risposta, perché indubbiamente le obbligazioni bancarie hanno un trattamento diverso rispetto ai conti correnti bancari. Ora, se i conti correnti sono stati e i depositi bancari, quindi i libretti di risparmio, quello che è un deposito diciamo così a vista presso le banche, è stato garantito dal decreto, ecco che sul fronte invece delle obbligazioni bancarie questo decreto non mi pare che lo preveda, però dico altri approfondimenti ci saranno in seguito, perché le obbligazioni bancarie sono in fondo un prestito che il risparmiatore ha fatto alla banca, così come lo fa un'altra società, così come lo fa un'altra impresa, e quindi è garantito dalla stessa banca. Se la banca sfallisce ovviamente questo prestito entra nella procedura fallimentare, mentre i conti correnti hanno una procedura privilegiata perché sono soldi che il cittadino affida alla banca e quindi la banca è custode e lo Stato si fa garante di questa custodia. Storia. Sentiamo un altro ascoltatore, Giorgio da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio per lo spazio. Io volevo fare così alcune precisazioni sulla figura del ministro Brunetta. Dunque lui naturalmente non ha mai fatto nessuna critica alla sua categoria che è quella dei professori universitari. Non so se la gente lo sa, ma un professore universitario ha l'obbligo di 350 ore all'anno fra lezioni ed esami. Poi, se vuole magari fare la ricerca, la può fare, ma non la può neanche fare. Poi volevo ancora mettere in evidenza un'altra cosa. I professori strutturati, e con questo anche i ricercatori strutturati, non hanno l'obbligo di mettere nessun segno quando entrano dentro, per cui non sono controllabili proprio per niente, a parte quelli dei policlinici che hanno l'obbligo perché sono in strutture sanitarie. Quindi è facile guardare sempre diciamo in casa dagli altri, ma secondo me se fosse una figura coerente dovrebbe cominciare dai suoi colleghi, che per me sono ancora rimasti, come diciamo regolamenti, hanno dei privilegi che sono ormai rimasti gli unici in tutto il settore lavorativo. E volevo solo dire questo. La ringrazio della sua, diciamo così, testimonianza. Ovviamente sul fronte dei privilegi pubblici c'è molto da fare, qualcosa si sta facendo, il problema è certamente vasto, il problema dei professori universitari è un problema aperto, ma vorrei approfittare, mi scusi se torno un attimo sulla domanda precedente perché è molto importante anche per i risparmiatori, sul Sole 24 Ore di oggi c'è proprio una risposta in terza pagina nella rubrica domande e risposte, e dice che le obbligazioni e le azioni bancarie non sono garantite dallo Stato perché si tratta di investimenti e non di depositi, come dicevo prima, mentre i depositi sono risparmi affidati alla banca che l'ha in custodia, le obbligazioni sono un prestito che si fa alla banca e quindi che la banca di cui la banca diventa garante. Quindi leggo ancora sul Sole 24 Ore, le obbligazioni bancarie non vengono garantite neanche con altre formule di copertura del decreto anticrisi emanato dal governo Berlusconi. E su questo tema mi fermo un attimo, lascio la parola al traffico. www.ecopolis09.it. Chi pensa sostenibile si incontra alla Fiera di Roma. Vi presenta Che strada fa? Traffico intenso intorno alle principali città, rallentamenti e code si segnalano su tangenziali e autostrade. Una buona notizia arriva dal traforo del Monte Bianco perché non è più bloccato, ci sono comunque attese nelle due direzioni. Ricordiamo, all'interno del tunnel era rimasto fermo un mezzo pesante in avaria, 30 minuti al pedaggio italiano, 40 minuti al pedaggio francese. Sull'autostrada del Sole ci sono code a causa di un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. In Veneto lunghe code sulla 4 in direzione Trieste, attese di 4 km alla barriera di Venezia Mestre e code proseguendo sulla tangenziale di Mestre fino alla Milanese. Ricordiamo c'era stato anche un tamponamento tra due mezzi pesanti ma poi risolto. Per chi viaggia sulla 6 Torino-Savona in direzione Savona ancora non ci si può immettere sulla 10 Savona 20 miglia nelle due direzioni per un incidente, si è ribaltato un mezzo pesante. Le code per lavori a tratti rimangono sulla 4 Milano-Brescia, tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione del capoluogo lombardo. È tutto, noi ci risentiamo alle 9.45. Promo 24. Energia, rifiuti, mobilità, acqua, urban design, salubrità dell'ambiente. Sono solo alcuni dei problemi che coinvolgono chi vive in città. Per discutere di futuro sostenibile ed economicamente dinamico, si terrà a Roma Ecopolis Expo e Conference, un grande evento organizzato da Fiera Roma e Camera di Commercio di Roma, con l'obiettivo di raccogliere, proporre e valorizzare le migliori pratiche e tecnologie esistenti a livello internazionale riguardo a tematiche ambientali e sostenibilità urbana. Visita www.ecopolis09.it e www.radio24.it. Per rimanere informato sugli aggiornamenti del programma, gli appuntamenti di avvicinamento all'evento, le conferenze tematiche e su come partecipare a Ecopolis 09 Expo e Conference dal 1 al 3 aprile alla Fiera di Roma. Dietro la notizia. Buongiorno, bentornati a Dietro la notizia, bentornati da Gianfranco Fabi. Lascio subito la linea a Enzo da Carbonia. Buongiorno. Buongiorno. Io non è che sia un grande esperto di economia, però io credo, avendo letto da poco, qualche anno fa, il libro di Riffin che parlava proprio di ciò che avvenne nel 29, io ritengo che se si mettessero d'accordo americani ed europei e in questo momento dessero la parità monetaria di dollaro ed euro, sono sicuro che metterebbero un po' di serenità nell'ambito economico. E potrebbero anche concordare che questa oscillazione, una volta raggiunto un equilibrio, potrebbe oscillare come era nel famoso serpentone delle monete di tanti anni fa, serpentone. L'oscillazione del massimo 5% più o meno. Io credo che, secondo, chiaramente prendetela come una valutazione di uno che non è grande esperto di economia, però renderebbe, secondo me, più sereno l'ambiente e probabilmente si riuscirebbe anche a rimettere in sesto nel breve tempo i problemi di borsa. Io la ringrazio per questo intervento e devo dire che purtroppo, ripetendo forse una frase fatta, non esistono soluzioni facili per problemi difficili. La situazione internazionale della finanza è una situazione particolarmente complessa in cui stanno giocando molti fattori e purtroppo sono tutti fattori negativi. In questa fase bisogna peraltro dire che il fattore valutario, cioè i rapporti tra le monete, non sono l'elemento principale di crisi, non sono l'elemento di crisi perché l'elemento di crisi è dato dal credito bancario, dal fatto che il credito bancario sia andato molto al di là della realtà, delle potenzialità operative concrete, e quindi il credito bancario, ma non solo negli Stati Uniti, abbiamo visto anche in Europa, ha creato delle situazioni di squilibrio che poi hanno dovuto essere compensate e sono state compensate purtroppo attraverso il fallimento di banche, attraverso la mancata garanzia dei prestiti e così via, quindi avviando una crisi che ha dimostrato come il valore su cui erano fondate le banche era un valore fondato più sulla sabbia che sulle cose concrete. Quindi il problema monetario, il problema valutario è un problema, diciamo così, secondario in questa fase. Il problema più importante è quello di ridare fiducia in quelli che sono gli operatori del mercato, ridare fiducia nelle istituzioni, ridare fiducia nelle banche, ridare fiducia nella moneta tout court, non tanto nella moneta che sia essa espressa in dollari o in euro, ma in una moneta che deve essere appunto un'espressione di ricchezza e che in questa fase purtroppo sta diventando un'espressione di povertà. Grazie, sentiamo un altro ascoltatore, Antonello da Padova, buongiorno. Buongiorno, complimenti intanto per la trasmissione. Io le volevo fare una domanda e successivamente poi una considerazione. La domanda è, ieri quando il Ministro dell'Economia in Parlamento ha espresso appunto la volontà di togliere la norma che dicono abbiano messo sotto banco così all'ultimo momento, e poi la stessa considerazione l'ha fatta ieri sera il nostro Presidente del Consiglio, cioè lei come la valuta una, diciamo, una cosa così detta all'ultimo momento, tirata fuori così? Cioè, secondo lei un Ministro dell'Economia non sapeva di questa norma a favore di questi personaggi che hanno fatto di tutto per far fallire le aziende, per creare passivi? Io la ringrazio, la domanda è molto chiara. È chiaro che io non so cosa sapesse il Ministro, ma è possibile che il Ministro non sapesse, perché le procedure parlamentari sono procedure autonome, sono distaccate dalle procedure del Governo. Il Governo ha il diritto e il dovere di presentare dei disegni di legge, così come il Parlamento, i singoli parlamentari hanno il diritto e il dovere di presentare dei disegni di legge o di emendare i disegni di legge presentati dal Governo. Quindi è del tutto verosimile che il Governo fosse all'oscuro. E la buona fede va salvata. Se un ministro dice io non sapevo di quello, io credo al ministro fino a prova contraria. Sentiamo Stefano da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, io approfitto dell'occasione per farle gli auguri. La ringrazio. Per questo prestigioso incarico. Io ci tengo a precisare che sono un delegato di regionale di cittadinanza attiva e sono veramente molto preoccupato per quello che sta succedendo nel nostro territorio, perché effettivamente il mio intervento si basava proprio sull'osservazione che ha fatto il signore prima di me, cioè è veramente impressionante che se non fosse stato per la trasmissione di Milena Gabanelli a Report, questa norma sarebbe passata tranquillamente. E poi dopo ovviamente Tremonti si è trovato a dover cavalcare la tigre, perché io assolutamente, insomma, non sono nato ieri, ho 55 anni, sono un dirigente medico e non ci credo al fatto che lui non conoscesse questa norma. Però ecco, quello che dico io, voi giornalisti avete un ruolo fondamentale nella democrazia di una nazione, io penso che sarebbe ora che recuperasse questo ruolo. Lei si sente indipendente? Ma indubbiamente sì, io mi sento indipendente, mi sento di sopra delle parti, mi sento in dovere di fare il mio ruolo. Purtroppo i giornalisti dispongono di pochi mezzi, non hanno i mezzi di investigazione che possono avere la magistratura, la guardia di finanza, i carabinieri, devono servirsi solo del proprio telefono e della propria intuizione. Ci sono giornalisti che sanno fare molto bene il proprio mestiere, anche Radio 24 in passato l'ha dimostrato in molti casi, e noi pensiamo di poter continuare su questa strada ad essere, come dicevo appunto nel mio editoriale, dei guardiani cordiali ma implacabili di fronte ai palazzi del potere per quello che si riesce a fare. Lei ricordava Milena Gabanelli, una giornalista che ha il pregio della curiosità e la grande caratteristica di non fermarsi di fronte a nessuna cosa. È una giornalista come noi ci sentiamo dei giornalisti come lei. Io la ringrazio, sentiamo Danilo da Vercelli, buongiorno. Buongiorno, due domande velocissime e poi, se posso, una piccola considerazione. Allora, domanda 1 è questa: vorrei capire meglio come qualunque Stato possa sostenere economicamente delle banche quando il potere di emissione della moneta è in mano alle banche stesse. Ecco, mi scusi, una cosa per volta e vediamo se abbiamo tempo. Il potere di emissione della moneta adesso è in mano alla Banca Centrale Europea. Sappiamo benissimo che le banche centrali sono banche private, perché il capitale, ad esempio, della Banca d'Italia è totalmente in mano ai gruppi bancari italiani, e le banche centrali nazionali poi partecipano alle banche centrali, nel nostro caso la Banca Centrale Europea, ecco. Quindi la sovranità monetaria per l'emissione monetaria è in toto in mano alle banche centrali, che però sono di fatto in mano alle banche private. E in effetti noi sappiamo che la nostra moneta è una moneta debito, perché ogni emissione monetaria, sia virtuale, che per la maggior parte oggi è il denaro virtuale, che cartaceo, genera un debito per il cittadino, per l'impresa o per lo Stato. Quindi come è possibile questo? Sicuramente semplicemente con uno sbrellamento fiscale è molto forte. Quindi io vedo questa manovra più come un impoverimento, un rastrellamento di ricchezza ancora ai cittadini per sostenere qualcuno che già si arricchisce emettendo la moneta. Ecco, vede, lei da un certo punto di vista ha ragione, però bisogna pensare al fatto che lo Stato interviene acquisendo, entrando nel capitale di queste banche, acquisendo dei titoli grazie ai fondi ovviamente che lo Stato ha e che può avere anche grazie all'emissione di titoli di debito pubblico che continuamente avviene e avverrà. Lo Stato italiano in questo è maestro, abbiamo un debito pubblico che si è formato negli anni, che è molto vasto ma che può crescere ancora. Questi titoli rappresentano una proprietà delle banche e la speranza è quella che queste banche, superata questa fase di difficoltà, possano tornare, come hanno fatto in passato, a produrre reddito, a far crescere il proprio valore, e quindi se la crisi si supererà, come tutti speriamo che la crisi si possa superare, lo Stato potrà fare un affare avendo acquisito queste banche e poi ritornando a vendere questi titoli sul mercato. Quindi è una manovra momentanea, una manovra che indubbiamente colloca delle risorse statali per il salvaggio delle banche, ma che ha per finalità il salvataggio complessivo del sistema, in cui si avvantaggeranno tutti i cittadini e quindi anche le banche, e quindi quello che si spende adesso potrà ritornare in futuro anche con gli interessi. Questa è la speranza. Dobbiamo fare di tutto per uscire da questa crisi e cerchiamo anche di affiancare chi, come lo Stato in questa fase, sta cercando di ridare fiducia ai cittadini. Io ringrazio, mi fermo qui, ringrazio tutti gli ascoltatori, anche quelli che mi hanno mandato degli auguri via SMS, l'appuntamento è per lunedì.